Il 7 gennaio è stato ritrovato il corpo di un bambino di 10 anni nascosto in un carrello di un aereo partito dalla Costa d'Avorio e diretto in Europa. Questa puntata è nata da un'urgenza emotiva, un tentativo probabilmente maldestro di onorare la sua memoria, la sua e di altri che hanno perso la vita nella ricerca di un futuro. Per quanto breve sia stata questa puntata, dobbiamo ringraziare diverse persone. Le parole sono tratte dal profilo Twitter di Johannes Buchler. Se non lo conoscete, cercatelo, ne vale la pena, oppure aspettate di comprare il suo libro a fine mese. Il suo racconto è stato letto da Bakary Sonko, Anna Malus e Abialo Owotutu. Ringraziamo per il supporto tecnico e l'ospitalità Claudia Mitidieri, Elisa Macciocchi, Daniela Corrente e Bahia Labub. Alla parte tecnica, al di là del vetro e a fianco al camino, Tony Lyon, io sono Giulia Scalona, buona serata. Mi chiedo come si possa rimanere indifferenti di fronte a questa tragedia. 10 anni, accidenti, 10 anni. E purtroppo non è la prima volta. 5 dicembre 2002, siamo finalmente arrivati in Londra e in Inghilterra, la nostra terra promessa. Beh, diciamo che Mosè poté almeno vederla quella terra, seppure da lontano. Noi nemmeno quello. Quella terra abbiamo potuto solo immaginarla. Sì, perché se è vero che siamo arrivati in Inghilterra, il medico ha appena dichiarato che siamo morti di ipotermia. Chissà, lo spavento per quello povero manutentore che, mentre controllava l'aereo appena atterrato a Londra, ha scoperto la nostra presenza nel vano carrello di un DC-10 della Ghana Airways, arrivato da poco a Londra. Viaggiare nel vano carrello con quei vestiti è stata una cosa da pazzi. Ha detto il medico, come abbiamo fatto a non pensarci prima? Sarebbe bastato comprare un biglietto di prima classe. Lo so, comunque, io ho 12 anni, o meglio, avevo 12 anni. Indosso un paio di jeans un po' lunghi, tanto doverli arrotolare sulla caviglia, una maglietta colorata e una giacchetta grigia. Certo, i sandali non sono il massimo, sul costo concordo. Il mio amico, che di anni ne aveva? 14. Ha un Apollo blu, maniche corte, pantaloni e ricci di diversi colori, scarpe da jogging grigie, tipo Nike, solo tipo, però con la scritta Pocket, che vuol dire pavone. Non abbiamo calcolato che un aereo di linea in volo può raggiungere e superare gli 11.000 metri e che a quella distanza da terra la temperatura esterna è di 50-55 gradi sotto zero. E quindi siamo morti. Ci hanno stesi a terra, sotto l'aereo. Ci hanno svuotato le tasche. Un portafogli vuoto, due cartoline d'auguri stampate da una compagnia aerea del Ghana e un vecchio lucchetto. Cose inutili, ma è tutto quello che avevamo quando siamo partiti per l'Europa. Per quale motivo siamo partiti? Sempre lo stesso. Ricordate la storia di Aguin Koita e Foddé Tonkara? Nell'agosto del 1999 sono partiti dalla capitale della Guinea e poi li hanno ritrovati morti a Bruxelles, nel vano carrello di un aereo. Loro avevano una lettera in tasca per i potenti d'Europa. Siamo morti per lo stesso motivo, solo che noi non avevamo nemmeno una lettera per i potenti. A cosa sarebbe servito? È forse servita la loro? Ve la siete dimenticata presto. Mi dispiace solo di una cosa. Il medico legale ha detto che eravamo neri, quello si vede subito, ma ben nutriti. Secondo voi, se uno è nero e ben nutrito, non può cercare un futuro migliore? risvelerò un segreto. In questo mondo ci siamo tante, troppe differenze, però c'è una cosa che accomuna molti ragazzi come noi, neri, bianchi, africani, asiatici, americani e europei. Quella di non avere un futuro, quindi datevi una mossa, ma se proprio non avete una soluzione, lasciateci la speranza, almeno quella, eppure qualche forma di pazzia, come attraversare un addensato o il mare, entrare in un vano carrello di un aereo per cercare di raggiungere la terra promessa.